estetico per l'umore, ripido in cianzo tutto il cielo, offuschi il mio pensiero. Lascio florileggio di parole e listino prezzi per le persone, cadi soli loqui dal tuo gradino, fendiceri magici alla gente stanca. Ma nemmeno tu conosci ciò che dici, blateri misteri ad ogni mia domanda, tinto portavoce di una morale che non è tua. Ma alla fine della notte, oltre il buio, cosa c'è? Vanno via tutte le ombre, la luce c'è per me. Era miele velenoso quello che mi davi tu, una vita in una gabbia, ora non la voglio più. Castello di menzogne, crolla tutto e vedo già l'orizzonte sconfinato, senza false verità. Bambino piccolo sagomato, sarà un adulto ben confuso, sensi di colpa su misura, la sua paura ti nutrirà. Con l'esemplare per il tuo gregge, ma eccessivo peso sulle sue spalle, invidi incenso il suo cielo, offuschi il suo pensiero. Ciao.